l'IRPEF, i famosi 80 euro. Renzi dice non ci saranno nuove tasse, si ipotizzano tagli alla sanità. Il ministro Lorenzin a Radio 24 dice non minaccio dimissioni ma darò battaglia. Alfano dopo gli scontri a Roma, inaccettabili gli attacchi alla polizia, manifestare un diritto, tirare razzi non lo è, siamo pronti a vietare i cortei nei centri delle città. Si parte per le vacanze di Pasqua, tra le incertezze sul tempo e il traffico già molto intenso, incidente con una vittima questa mattina sull'autostrada del Sole, chiusa per alcune ore. Cioccolata e colombe scadute, coloranti per uova non a norma in una serie di operazioni dei NAS, sequestrate 360 tonnellate di cibo. C'è stata una valanga sull'Everest, la più grande mai registrata nella storia della montagna. Sepolto decine di persone, le vittime sono almeno 12, tutti Sherpa. E in Italia, a Courmayeur, sono state avviate le procedure di emergenza per una frana che era in movimento dal 2009. Si tratta di 400.000 metri cubi di roccia, ieri nuovi con nuovi crolli. È il caso dello scambio di embrioni Alpertini e il tema delle procedure di sicurezza nei centri dove si fa fecondazione assistita. Tra poco intervista al genetista che ha guidato la commissione d'indagine. Una buona giornata da Simone Spezzi e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Tra poco andremo alla politica naturalmente e alla politica economica soprattutto, a questo famoso taglio dell'IRPEF. E però in apertura vi vogliamo portare su strade e autostrade perché naturalmente una giornata nella quale molti di voi si metteranno in viaggio. Ci colleghiamo con Roberto Rizzo che è operatore del centro viabilità di Società Autostrade per l'Italia. Buongiorno Rizzo. Sì, buongiorno. Allora, volevo sapere innanzitutto brevemente qual è la situazione, anche che poi alle 13.15 avremo i colleghi di Strade in diretta e ci daranno un aggiornamento molto puntuale. E poi le previsioni, però intanto mi dica come vanno le cose adesso. Allora, abbiamo flussi di traffico sostenuti, soprattutto sulla 1 in uscita da Milano verso Bologna, infatti code a tratti vengono segnalate dal bivio con la tangenziale ovest sino a Lodi, poi tra Casal Pusterlengo e Fiorenzuola, ma anche sul tratto bolognese della A14 Adriatica con code a tratti a partire dal bivio con la 1 Milano-Napoli sino ad Imola. Quindi una situazione di traffico molto sostenuta, ma come avevamo previsto oggi è una giornata di partenze e lo sarà anche domani con la conclusione. Stasera Rizzo, stasera va a peggiorare il traffico? Questa sera diciamo che dalle 20 avremo una normalizzazione del traffico ed anche una mano ce la darà il blocco della circolazione dei camion che partirà dalle 14 alle 22, quindi diciamo che il periodo più critico era la mattina e già con il fermo dei camion ci sarà una fluidificazione maggiore. La situazione dovrebbe migliorare, per quanto riguarda domani? Per quanto riguarda domani sarà un traffico sostenuto ancora in uscita a partire dalle 7-8 del mattino sino alle 14, quando dopo sicuramente avremo una regolarizzazione del traffico. Domani mattina poi i camion saranno fermi dalle 8 alle 16. Grazie Roberto Rizzo, operatore del centro viabilità di Società Autostrade per l'Italia, e naturalmente tutti gli aggiornamenti come sempre al quarto d'ora e 45 con i colleghi di Strade in diretta. Restiamo sulla Pasqua a questo punto e parliamo del maxi sequestro di alimenti in tutta Italia. Caramelle troppo blu, colombe scadute e bevande contaminate. Blitz dei NAS nell'operazione denominata Pulizie di Pasqua. I carabinieri di 38 nuclei hanno eseguito oltre 1500 ispezioni, sequestrate 360 tonnellate di alimenti, sigilli a 46 strutture. Le indagini erano partite da tempo, come spiega il capitano Marco Datti, comandante dei NAS di Roma. L'operazione ha riguardato tutti i luoghi di produzione, di commercializzazione e distribuzione di prodotti tipici delle festività pasquali. L'operazione ha visto impegnati tutti i NAS dislocati sul territorio italiano, quindi tutti i 38 nuclei, è stata condotta per circa 15 giorni. Nella capitale trovati alimenti di provenienza indiana e pakistana contaminati da escrementi di topi, ma bloccati in tempo, così il capitano Datti. Sono state appunto sottratte dalla linea commerciale per tempo. A Brescia sequestrate caramelle con colorante blu in eccesso, a Napoli spigole e orate senza etichettatura e sigilli a un'azienda dolciaria totalmente priva di autorizzazioni. Daniele Scopigno, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo a Roma però per parlare di altro, per parlare di questo Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri degli 80 euro per così dire. Veniamo innanzitutto ai contenuti, a quello che ci si aspetta, tra l'altro sta parlando Matteo Renzi. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Bonus per 15 milioni di italiani, la metà dei quali dovrebbe ricevere fino a 80 euro al mese in busta paga. Questa, come sappiamo, è la principale misura sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Saranno probabilmente 41 articoli a definire gli sgravi fiscali. I benefici maggiori sono attesi per i redditi tra i 18 e 25 mila euro, ma risorse arriveranno anche per gli incapienti, cioè coloro che guadagnano meno di 8 mila euro l'anno e che riceveranno circa 30 euro in media al mese. Il bonus varrebbe da maggio a dicembre, per poi essere confermato in termini strutturali dalla legge di stabilità, un'operazione che vale circa 7 miliardi di euro e che verrà coperta dai tagli di spesa, dalla sanità alla difesa alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, anche se si sta ancora ragionando in vista del Consiglio dei Ministri fissato per le 15:30. Si parla di sforbiciate alla sanità per un importo di 2 miliardi e mezzo di euro in un biennio, poi probabile giro di vite per gli stipendi di magistrati, esercito, medici, professori, sacrifici anche per i gabinetti ministeriali, la presidenza del Consiglio. Un'altra grossa quota riguarderà la Consip, i risparmi sugli acquisti per gli enti pubblici. E poi il capitolo imprese, qui si prevede un taglio dell'aliquota IRAP coperto con un aumento dal 20 al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie, titoli di Stato esclusi. Torna infine dal 1 gennaio di quest'anno l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Da Roma è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Non è proprio tutto da Roma, perché invece c'è tutta la parte politica. Elisabetta Fiorito, buongiorno. È proprio così, nel giorno tanto atteso che è finalmente arrivato. Intanto diciamo subito che il Premier Matteo Renzi ribattezza il decreto con l'hashtag Si cambia verso e poi promette di mantenere gli impegni e annuncia la conferenza stampa alle 16:30, subito dopo il Consiglio dei Ministri convocato alle 15:30. Insomma, sarà un Consiglio dei Ministri evidentemente lampo, Simone. Ribadisce comunque che ci sarà il tetto per i manager statali e dice che Moretti è andato in Finmeccanica perché è bravo. Fin qui Renzi, perché non tutto fila liscia all'interno della maggioranza. Il nuovo centrodestra è sul piede di guerra, no a tagli sulla sanità da parte del ministro della salute Beatrice Lorenzin. Allora sentiamo quanto ha detto a Mix 24, Simone. Ha pensato di dimettersi? No, non ho pensato di dimettermi, ho pensato invece di combattere per spiegare che la politica sanitaria, la salute delle persone ha bisogno di una strategia. Ne parliamo, senta, ma intanto ci sarà battaglia oggi in Consiglio dei Ministri, allora? Direi proprio di sì. Ma saranno tagli sugli acquisti? Se sono tagli sugli acquisti a me vanno bene, io l'ho già detto. E dove pensa di prenderli? Dagli sprechi, che ce ne sono ancora tanti all'interno della sanità, per esempio nelle lavanderie degli ospedali, nelle mense, nella gestione di rifiuti, ma non si può andare a toccare i servizi primari alle persone. Naturalmente, ecco. Allora il patto delle regioni comunque muore prima di nascere, mi pare. Se non c'è la capacità di capire che può essere il Ministero della Salute insieme alle regioni a gestire questo risparmio, sì, è difficile che le regioni possano continuare così. Ecco, questo abbiamo sentito Beatrice Lorenzin a Mix 24. Intanto qui alla Camera c'è il decreto lavoro e Angelino Alfano avverte il Premier: il nuovo centrodestra non accetta passi che ne annullino gli effetti. Chiediamo a Renzi di dare una calmata alla sinistra del Partito Democratico. Alfano, che annuncia anche la battaglia del nuovo centrodestra per le europee, chiudere almeno una delle due sedi dei Parlamenti europei perché costano troppo. A te, Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Da segnalare anche tra le parole di Angelino Alfano, torneremo a parlarne più tardi. Intanto, se volete commentare, c'è come sempre il 349-238-6666. Dice Alfano, a proposito degli scontri a Roma dell'altro giorno: è inaccettabile che il centro storico sia sottoposto al rischio di saccheggio ogni 2 o 3 mesi. Non vorremmo che ci costringessero a vietare in queste manifestazioni l'accesso al centro storico. Un ragionamento che poi Alfano ha esteso, per così dire, anche al di fuori della capitale, parlando anche degli altri centri città. Veniamo alla cronaca con l'omicidio che è avvenuto a Pisa. Sono stati identificati i responsabili. Si chiama Amrouni Hamza, è un autotrasportatore tunisino di 27 anni, incensurato e da tempo residente nel Pisano. Per la polizia non ci sono dubbi, è stato lui domenica scorsa ad uccidere con un pugno a Pisa il cameriere bengalese Zakir Hossain. L'aggressione era stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza e proprio grazie alla diffusione di quelle immagini la polizia avrebbe ricevuto alcune segnalazioni che hanno portato all'identificazione dell'uomo e dei 3 giovani che si trovavano con lui due dei quali sono stati indagati per favoreggiamento. Accusato di omicidio preterintenzionale, martedì il tunisino è riuscito a fuggire nel suo paese con un volo da Malpensa. Per lui è già stata chiesta l'estradizione. Secondo gli investigatori non ci sarebbero motivi validi per spiegare l'aggressione. Il prefetto di Pisa Tagliente esclude però che si sia trattato di un caso di knockout game, la moda giovanile che consiste nel colpire con un pugno una persona a caso per strada e poi fuggire. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una gigantesca valanga, forse la più grande nella storia dell'Everest, si è staccata da circa 5.800 metri di quota e ha investito decine di persone, in maggioranza sherpa e guide che stavano attrezzando la via in vista dell'alta stagione delle scalate. 12 le vittime accertate al momento, 5 dispersi, 8 le persone tratte in salvo. Un centinaio di altre persone, tra guide e alpinisti, sono rimasti bloccati al di sopra della valanga. Laura Bettini ha intervistato l'alpinista Daniele Nardi, che conosce bene l'area in cui è avvenuto incidente. Questa barriera di ghiacciai e di seracchi e di crepacci che separano il campo base a 5.000 metri con i 6.000 metri della parte alta della montagna è un insieme di ghiacciai che praticamente devono essere attrezzati con corde e scalette per quelle spedizioni commerciali, quindi per quegli alpinisti che sono privi della tecnica diciamo specialistica dell'alpinismo, ma che si lasciano accompagnare sulle montagne, e quindi un insieme di sherpa chiamati i dottori dell'Icefall mettono insieme una serie di corde e una serie di scalette per agevolare il passaggio di questo tratto molto pericoloso e scomodo da scalare. Per cui il periodo di aprile è proprio il periodo in cui gli sherpa si danno da fare per andare a sistemare tutte queste corde e scalette affinché poi i clienti delle spedizioni commerciali possano in qualche maniera passare. È chiaro che in queste circostanze in genere anche gli alpinisti normali poi ne usufruiscono e le utilizzano, però è chiaro è molto pericoloso perché c'è una concentrazione di persone sulla montagna veramente molto alta. Una notizia appena battuta dalle agenzie, è stato spiccato un mandato d'arresto a carico di Lee Yoon-seok, il capitano del traghetto affondato mercoledì con 475 persone a bordo al largo delle coste meridionali della Corea del Sud. Mandato d'arresto per lui e per altri due membri dell'equipaggio. E adesso parliamo di Armani e di fisco. Dalle passerelle che dettano lo stile nel mondo al fisco, anche Giorgio Armani finisce sotto le fitte maglie dell'amministrazione finanziaria. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, lo stilista milanese ha versato mercoledì al fisco 270 milioni di euro per sanare i periodi di imposta dal 2002 al 2009 di tre società estere del gruppo, in particolare di una costituita in Svizzera dotata di robusti organici. Nonostante l'ok preventivo del fisco a queste operazioni, tramite una procedura di interpello, nel 2013 il fisco ha bussato alle porte di Armani, che nel frattempo aveva riportato in Italia le tre società. La risoluzione da 270 milioni chiude ogni contestazione fiscale sulle società estere del gruppo. Paola Bottelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla situazione in Ucraina dopo l'accordo ieri di Ginevra. L'analisi di Ugo Tramballi. Barack Obama aveva detto di voler vedere le cose accadere sul campo prima di sentirsi rassicurato dalle conclusioni del vertice di Ginevra. Non aveva torto. Partiti dalla città svizzera i negoziatori, i russi dell'Ucraina orientale hanno annunciato che per loro non cambia nulla. Si rifiutano di lasciare gli edifici governativi che avevano occupato in armi perché per loro il governo di Kiev, che pure aveva negoziato con Mosca, è illegale. È difficile dire se sia un'iniziativa autonoma degli ucraini di lingua russa pronti a smentire perfino Putin per raggiungere i loro obiettivi nazionali, o se invece non sia l'ennesima bugia di Vladimir Putin, accordarsi su una cosa con gli americani e gli europei e ordinarne un'altra ai rivoltosi. Dall'inesistenza dei militari di Mosca infiltrati in Crimea e Ucraina orientale per organizzare le sommosse, dall'assenza di 40.000 soldati russi alle frontiere pronti a varcarle, dalla denuncia che a Kiev sono tutti fascisti, in queste settimane Putin ne ha dette e fatte dire di bugie. Non resta che vedere quale sarà la prossima. In apertura abbiamo parlato del traffico di Pasqua, abbiamo parlato dei sequestri dei NAS, non abbiamo ancora parlato dell'aspetto religioso. Stasera la Via Crucis. L'appuntamento è dopo le 9 di questa sera nell'area attorno al Colosseo e al Colle Palatino per la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo. Papa Francesco parlerà alla fine a braccio. Ma già sono noti i contenuti di meditazione che accompagna la cerimonia, che quest'anno è stata scritta da Giancarlo Bregantini, vescovo di Campobasso, noto anche per il suo impegno sociale contro la criminalità organizzata. E infatti dai testi già resi noti emerge una particolare attenzione per i temi del lavoro e della disoccupazione e lo sfruttamento, ma saranno anche trattati i temi del razzismo e la pratica della calunnia che colpisce, dice il vescovo, le persone trasformandole spesso in vittime innocenti. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Oggi il Consiglio dei Ministri per il taglio dell'IRPEF. Renzi dice non ci saranno nuove tasse, si ipotizzano tagli alla sanità. E il ministro Lorenzina, Radio 24, non minaccio dimissioni ma darò battaglia. Per quanto riguarda l'Ucraina, arrivano in questi minuti notizie dalla portavoce dei servizi segreti di Kiev che dice l'operazione militare contro gli insorti filorussi nell'Ucraina dell'Est prosegue, questo nonostante gli accordi di ieri di Ginevra. Alfano, dopo gli scontri a Roma, inaccettabili gli attacchi alla polizia, siamo pronti a vietare le manifestazioni nei centri delle città quando ci fossero dei rischi, ne parleremo più avanti con un esperto di ordine pubblico. C'è stata una valanga sull'Everest, la più grande mai registrata nella storia della montagna, ha sepolto decine di persone, le vittime sono almeno 12, tutti Sherpa. E nei nostri titoli non abbiamo tenuto oggi la lettera che ha inviato il Presidente della Repubblica al Corriere della Sera, nella quale indirettamente accenna una sua possibilità di dimissioni. Ne parliamo ora. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, le parole di Napolitano sono abbastanza chiare, pur nel tipico linguaggio istituzionale che deve anche tenere un presidente della Repubblica. Dice: confido in sostanza che stiano per realizzarsi condizioni di maggiore sicurezza che mi consentono di prevedere un distacco comprensibile e costruttivo dalle responsabilità che un anno fa mi risolsi ad assumere. Insomma, sta dicendo che tra poco, se le condizioni lo consentiranno, potrebbe lasciare. Ma guarda, Napolitano dice molte cose in questa sua lettera al Corriere, vuole anche spiegare il senso di certe polemiche che hanno investito il Quirinale e spiegare la sua azione di uomo che, nonostante queste polemiche e anche le accuse che vi è stato fatto oggetto, ha voluto preservare un certo equilibrio istituzionale nei passaggi molto delicati della vita politica. E sulla questione del suo lasciare, ma a me sembra che non ci siano delle sostanziali novità. Napolitano ha sempre detto che non avrebbe mai completato questo nuovo settennato e l'avrebbe lasciato dopo l'avvio del avvio sostanziale, non solo retorico, del processo di riforme istituzionali. In aggiunta si capisce benissimo che il Presidente della Repubblica tiene molto al semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea che comincerà a giugno, sicuramente non interverranno dimissioni durante questo semestre, quindi si parla comunque del 2015 quando il processo delle riforme presumibilmente, si spera, avrà compiuto qualche passo avanti. Vedremo che cosa succederà dunque e grazie al nostro Stefano Folli noi torniamo sulla vicenda dello scambio di embrioni al Pertini. Saluto Giuseppe Novelli, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, genetista, che ha presieduto la commissione d'inchiesta della Regione Lazio proprio sugli embrioni scambiati. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto le chiedo di aiutarci a capire o più che altro a confermare come effettivamente è andata la vicenda. Il problema è stata una quasi omonimia tra le due coppie di genitori in sostanza. Ma diciamo che è stato un caso di sfortunato incidente, chiamiamolo così, avverso durante una fase analitica, quindi di trasferimento, chiamiamolo così, degli embrioni. preparati accuratamente da questi operatori durante la fase di trasferimento nell'utero materno, diciamo, ecco, quindi è stato uno scambio vero e proprio di provetta, chiamiamolo così per semplificare ovviamente. Adesso se questo è dovuto al nome, direi che un pochino anche questo un po' si è esagerato, è purtroppo un tragico errore che si verificano in queste procedure nei laboratori. Lei sa che ci sono diversi tipi di errore, uno è quello individuale, umano, e l'altro invece di sistema. In questo caso si è trattato di un tragico errore individuale, umano. Le procedure, professore, sono state rispettate Albertini oppure no? Ed erano adeguate secondo anche standard non necessariamente italiani ma internazionali? Ma guardi, il Pertini è una struttura che fa questo tipo di operazione di circa un numero di 600 all'anno. Ogni seduta fa 5-6 coppie, quindi immaginate da quanto tempo opera, da 10 anni, quindi evidentemente da questo punto di vista la professionalità degli operatori e della struttura direi che non è in discussione. Ora poi è chiaro che queste cose sono in continua evoluzione dal punto di vista tecnico, di protocolli standard internazionale, atti a che cosa? A ridurre il rischio, ma mai ad azzerarlo, rischio zero, e questo vorrei ribadirlo, nelle procedure di laboratorio, così come in qualunque procedura medico-diagnostica, non esiste. Non esiste il rischio zero, questo vorrei che sia chiaro. Noi possiamo mettere tutti i protocolli che vogliamo, codice a barra, i chip, i colori, però le capisce, io posso anche mettere un sistema a colori individuale, però se poi manualmente invece di prendere la provetta rossa prendo la provetta bianca, cioè, voglio dire, non è che questo è prevedibile a priori. No, è chiaro, è chiaro, è chiaro, professore, siamo comunque sottoposti alla possibilità di un errore umano, e però in questo caso appunto mi sembra che nessuna di queste procedure di sicurezza che lei ha elencato, per esempio il codice a barre oppure la colorazione delle provette che è stata introdotta in un secondo momento, mi sembra che ci fosse. Sì, dunque qui la commissione ha rivelato questo, l'ha anche suggerito e proposto dei, diciamo, tecnicismi di miglioramento. Vorrei dire che loro avevano un sistema di identificazione con doppio codice, quindi sotto e sopra erano comunque queste provette siglate, e poi si ricordi che se l'errore fosse stato più volte ripetuto, se io prendo il nome o l'omonimia dovrei sbagliare la prima volta, ma anche nella seconda coppia dovrei sbagliare perché riprendo un cognome diverso, quindi voglio dire, è veramente, si è trattato di un tragico errore inconsapevole, tant'è che l'operatore, come lei sa, ha commesso l'errore, ha continuato ad operare dal 6 dicembre ad oggi in maniera inconsapevole. Lei si immagini che se fosse accorto di questa problematica non avrebbe lavorato tranquillamente, ma voglio dire, l'avrebbe prima denunciato chiaramente, no? Perché questo è previsto dai comitati etici internazionali per chi opera in queste strutture. Ecco perché insisto su quell'errore casuale, sfortunato, che ha riguardato solo quella coppia e quell'incidente, che poi noi abbiamo accertato che non ha coinvolto nessun'altra coppia di quella seduta. Senta, sarebbe un errore di sistema. Naturalmente, è proprio sul sistema che vorrei portarla. Dalla sua esperienza e da quello che conosce, in genere in Italia le sembra che le procedure possano garantire sicurezza da questo punto di vista? Naturalmente varierà da ospedale a ospedale, varierà da struttura a struttura, però in generale c'è un certo margine di sicurezza oppure no? Posso tranquillizzare un po' tutti che il margine di sicurezza esiste, in Italia esistono tecniche avanzate, procedure standard che sono sicuramente a garanzia di tutti gli assistiti. Ora naturalmente si può fare di tutto per migliorare, si deve fare di tutto. La Commissione ha anche suggerito, cosa che l'azienda ha prontamente recepito, quello per esempio ridurre il numero delle coppie che si sottopongono alla seduta, invece di 5 a seduta se ne fanno 3. Questo riduce, ma non lo elimina ovviamente, perché naturalmente poi si allungano anche le code di attesa, perché ne faccio di meno a seduta. Quindi è chiaro che è tutto connesso, e naturalmente l'introduzione anche di nuovi sistemi elettronici, eccetera, può aiutare la catena di custodia, cioè dal momento in cui il campione è prelevato fino al suo uso finale deve essere sempre tracciabile. E questo naturalmente è evidente che con sistemi nuovi, informatici, eccetera, può essere di grande aiuto per ridurre rischio. Senta professore, un'ultima domanda, io gliela devo fare, è libero di rispondere o non rispondere se vuole. La cosa che si stanno chiedendo tutti e sulla quale i giuristi si stanno scontrando è di chi sono i figli. Guardi, questo è un argomento molto delicato perché riguarda riflessi ovviamente etici e giuridici complicati. Ogni paese ha i suoi regolamenti. Lei sa che in Italia la madre surrogata non esiste, cioè non è previsto dalle nostre normative la possibilità del cosiddetto utero in affitto, per capirci, che è regolato da altre leggi. In Italia e in Europa è previsto. Ora, dal punto di vista biologico, se lei mi chiede i figli di chi sono, è chiaro che sono dei genitori biologici, su questo non si discute, però è ovvio che ci sono tutte le problematiche connesse al fatto che in Italia i figli sono di chi li partorisce, quindi direi che naturalmente questo è un compito che io da tecnico lascio appunto ai miei colleghi giuristi, che so che si stanno occupando in maniera molto attiva di questo problema. Però un buco normativo c'è, secondo lei, professore? Assolutamente sì, d'altra parte lei sa, si ricorderà che per esempio nella legge sui trapianti, questo è stato normato in maniera direi impeccabile in Italia, perché l'organo donato, il ricevente non sa il nome di chi l'ha donato perché viene anonimizzato, mentre oppure in alcune situazioni può saperlo se le fa richiesta specifica, quindi dipende appunto dalle varie situazioni. Certamente una legge ad hoc fatta bene non solo, diciamo così, non delimita le possibilità, il mondo è cambiato, la tecnologia è cambiata, la scienza è cambiata, dobbiamo renderci conto che oggi ci sono cose che solo, non dico 10 anni fa, ma 6 mesi fa non si facevano, quindi è chiaro che dobbiamo attrezzarci per poter così, diciamo, rispondere a ciò che la società e la scienza ci chiede. Grazie al professor Giuseppe Novelli, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, genetista e che ha presieduto la commissione d'inchiesta della Regione Lazio sugli embrioni scambiati al Pertini. Buona giornata, professore. Arrivederci. E saluto Fabrizia Derriara, sindaco di Courmayeur. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La chiamiamo perché c'è una frana monitorata in realtà dal 2009 che da qualche giorno ha accelerato il suo spostamento. Ieri c'è stato un crollo, un nuovo crollo, insomma, se non ho capito bene, se non ho capito male, decine di migliaia di metri cubi sono già caduti, sindaco. Sì, allora, questo, come ha detto lei giustamente, sono anni che seguiamo questa frana e appunto questo ci permette poi di mettere in atto delle azioni di protezione civile. Ieri ci si è manifestato un primo crollo che è comunque sempre di dimensioni ridotte rispetto la massa totale che si sta muovendo. Che è di che dimensioni? Se non ho letto male, 350.000 metri cubi. 1.000 metri cubi. Sono 300, tantissimi. Esatto, sono tanti. La porzione di ieri la stanno stimando questa mattina, è variabile tra i 5 e i 10 mila, per cui capite bene che è già stato un crollo importante, ma è ancora poco rispetto alla massa totale. Ci sono rischi per le abitazioni o la popolazione? Allora, la popolazione, le aree interessate sono state evacuate e dunque non c'è rischio per la popolazione. Possono esserci dei danneggiamenti alle abitazioni, alcune appunto date dalla massa che cade, altre invece più da proiezioni di massi che stanno cadendo ad altissima velocità. I geologi, perché immagino ci siano geologi e protezione civile, vi hanno detto se ci sono dei tempi, se sapete, se si capisce, vista l'accelerazione che ha preso, quando potrebbe cadere? Allora, ci sono due segnali che indicano che il crollo è imminente. Uno è l'accelerazione della massa che sta continuando in modo omogeneo su tutto il corpo di frana, e la secondo indicatore di un crollo è la frequenza dei crolli di piccole dimensioni. Tant'è che proprio ieri prima di questo crollo c'è stata un'attivazione molto importante. In questo momento ci sono meno crolli, la velocità continua a essere importante, impossibile è prevedere l'ora e il giorno in cui avverrà. Questi sono eventi naturali, hanno molto tempo, sì, noi umani, certo, abbiamo meno pazienza di aspettare, però in realtà al di là di alcune indicazioni è molto difficile fare una previsione, sicuramente è sulla strada del collasso. Grazie a Fabrizia Derriar, sindaco di Courmayeur, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Naturalmente. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. appena battuta dalle agenzie, i giudici del Tribunale del Riesame di Brescia hanno disposto la libertà per 7 dei secessionisti arrestati il 2 aprile scorso, tra questi l'ex parlamentare Franco Rocchetta e il leader dei Forconi Lucio Chiavegato, mentre ha disposto i domiciliari per altri 5. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri per il taglio dell'IRPEF. Renzi dice non ci saranno nuove tasse, si ipotizzano tagli alla sanità. Il ministro Lorenzin a Radio 24 non minaccia dimissioni, ma darò battaglia. Si parte per le vacanze di Pasqua, tra le incertezze sul tempo e il traffico già molto intenso, tra una decina di minuti i nuovi aggiornamenti dai colleghi di Strade in Diretta. Valanga sull'Everest, la più grande mai registrata nella storia della montagna, ha sepolto decine di persone, le vittime sono almeno 12, tutti Sherpa. Il naufragio del traghetto in Corea, mandato di arresto per il capitano, suicida il vicepreside della scuola dalla quale provenivano gli studenti a bordo. Saluto Francesco Carrer, che è un criminologo, è autore di vari libri, editi prevalentemente o esclusivamente forse da Franco Angeli, in merito ai temi dell'ordine pubblico. Buongiorno Carrer. Buongiorno a tutti. L'abbiamo chiamata perché abbiamo queste parole di oggi del ministro dell'interno Angelino Alfano. Molto si è discusso in questi giorni, lo abbiamo fatto anche da questi microfoni, intervistando il viceministro Bubbico, intervistando il sindacato di polizia su quello che è successo a Roma, gli scontri che ci sono stati a Roma l'altro giorno. Ci sono state delle violenze da parte dei manifestanti, la polizia ha risposto e poi ci sono state anche delle violenze da parte dei poliziotti. Oggi il ministro dell'interno dice stop ai saccheggi o divieto di accesso al centro di Roma, estendendo il discorso in realtà anche agli altri centri storici, cioè dice quando noi abbiamo informazioni che possa avvenire qualcosa di questo genere, che ci possano essere delle violenze di qualche tipo, non dobbiamo consentire ai cortei di entrare nelle città. Le sembra una soluzione giusta, Carrer? Sostanzialmente direi di sì, anche perché nella maggior parte delle nostre città i centri storici non sono proprio il centro, ma il centro del centro, per cui già in una realtà come Roma, per uno che voglia manifestare pacificamente, credo che determinate strade, determinati viali siano molto più utili che non le viuzze e i vicoli dei centri storici. Non parliamo poi di altre città dove i centri storici sono ancora più concentrati, quali ad esempio Genova, ma credo che linea di massima sia una valutazione corretta. Senta, Carrere, ci sono delle carenze nella capacità di gestione dell'ordine pubblico da parte delle nostre forze dell'ordine e che poi si riflettono anche in fatti come quelli che abbiamo visto durante la manifestazione di Roma? Considerando la poca collaborazione della gran parte dei manifestanti, direi di no. Io ho sempre considerato l'ordine pubblico la peggiore fra le attività di polizia in termini di difficoltà di previsione, di prevenzione e di contrasto sufficientemente democratico da consentire alla grande maggioranza dei manifestanti democratici di manifestare il loro dissenso. Credo che, vista la presenza ormai costante di piccole minoranze che partecipano alle manifestazioni per tutto tranne che per manifestare pacificamente, gli incidenti, quando ci sono, siano deprecabili, ma rientrino in una fisiologia del sistema manifestazione democratica nel perfetto rispetto di tutti i cittadini, dei manifestanti, delle forze di polizia e ultime ma non ultime delle cose. Ma non ho capito, Carrer, lei ritiene fisiologico per esempio un fatto, insomma l'abbiamo visto nei video e nelle immagini, cioè il fatto che appunto un poliziotto metta un piede sopra una ragazza inerme sdraiata per strada o che in quattro si mettano a manganellare uno, cioè per lei è fisiologico? Assolutamente no. Ah, questo, ok, allora non ho capito. Un fenomeno deprecabile e molto spesso è un reato, punto, indiscutibilmente. Ma se lei pensa che giornalmente i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri in ordine pubblico sono migliaia, centinaia e migliaia, quella che all'estero viene chiamata molto eufemisticamente la sbavatura è molto negativa, ma ci sta. Né più né meno, mi scusi, dello scandalo quotidiano nella clinica per persone anziane o nella corruzione nell'ufficio periferico. In dieci secondi, i numeri identificativi sui caschi possono essere una soluzione? L'abbiamo chiesto praticamente a tutti. Guardi, io ho già scritto in tempi non sospetti che lo considero un obiettivo a medio termine. Quando il paese sarà realmente democratico, secondo me sarà corretto che i poliziotti abbiano l'identificativo sui caschi. Oggi ce l'hanno pochissimi in Europa, a differenza di quanto vanno in giro dicendo determinate persone poco informate, perché ho fatto il giro non più tardi di una settimana fa e non sono molte le polizie che hanno l'identificativo sul casco. Quindi, obiettivo... alcuni casi le polizie che lo hanno durante l'attività di servizio normale se lo levano in ordine pubblico, proprio perché è una situazione di tale conflitto e di tale pregiudizio che i poliziotti in questo momento non sarebbero sufficientemente tutelati. Domani, bene, e io mi sono sempre impegnato per farlo, lo considero un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto. Grazie Francesco Carrera, criminologo ed esperto di ordine pubblico. Noi adesso facciamo così, andiamo ad Agrigento, ce l'abbiamo pronto l'audio, Gianmarco Ferronato, via. Zai tian, zhanguo pai niu, hai min li mei le do. E questo è il sindaco di Agrigento, che noi non nominiamo per questioni di par condicio, perché è candidato alle europee. Abbiamo però al telefono Pietro Luparello, che è il vice sindaco di Agrigento. Buongiorno. Sì, buongiorno questo a voi. È un invito ai turisti cinesi su YouTube a venire ad Agrigento. Invadeteci, dice il sindaco. Sì, noi lo speriamo, è questa invasione pacifica. Così motivata dalla voglia di conoscere la nostra città, i nostri luoghi, la nostra ricchezza, il nostro clima, possa essere così accolta da questa nazione economicamente emergente che comincia così a vedere nel turismo anche una forma di evasione da quelli che sono stati i periodi in cui la Cina... Ma il sindaco lo sa davvero il cinese o ha letto un gobbo? Ha letto qualcosa di scritto? Ma sì, il sindaco ha letto qualcosa di scritto stamattina, così chiacchierando mi diceva: ma anche lei deve imparare il cinese. Dico: no, anch'io devo imparare il cinese, se il sindaco mi dimostra che ha imparato. Che ha imparato il cinese, ma... dice in realtà non lo sa. In realtà sono certo che non conosce il cinese, ma ha semplicemente letto qualcosa che gli hanno pronunzialmente scritto, ecco, perché ritengo anche difficile riuscire a decifrare quei caratteri che per noi sono così quasi dei caratteri geoglifici, non riesco a capirne, ecco, il senso della parola. Allora Luparello, siamo quasi in chiusura, penso che per Pasqua insomma molti cinesi non ne arriveranno, però sicuramente questo video sta facendo parecchi giri e qualcuno lo noterà. La ringrazio, in bocca al lupo. Grazie a voi. Bocca auguri, al lupo per grazie, il vostro turismo e auguri. Pietro Luparello, vice sindaco di Agrigento. Chiudiamo parlando di dimissioni in bianco. Cosa sono? Sono quelle che si firmano ed è illegale all'atto della firma del contratto di lavoro, un problema che riguarda soprattutto le donne, ma non solamente le donne. La Commissione Lavoro del Senato ha bloccato ieri un testo per contrastare questa pratica. Il senatore di Scelta Civica Pietro Ichino dice che la maggioranza ha preferito rinviare le nuove norme all'interno della delega sul lavoro. Sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. C'è stata una relazione del senatore Hans Berger sul disegno di legge arrivato dalla Camera, relazione piuttosto critica nel merito delle scelte compiute dalla Camera. La maggioranza in commissione non si è pronunciata sul merito della questione, ma ha ritenuto che, essendo iniziato il lavoro, la discussione sulla legge delega per il riordino delle norme sul rapporto di lavoro, fosse il caso di accorpare questo disegno di legge con il nuovo testo unico delle norme sul rapporto di lavoro. Così era Pietro Ichino, però evidentemente c'è stato qualche problema col file. Opinione diversa quello di Giovanni Barozzino, senatore di Sinistra Ecologia e Libertà, ascoltiamolo. era un DDL che era stato già approvato alla Camera anche dal PD e che era di una semplicità e trasparenza che in questo momento, insomma, servono veramente i cittadini e un mondo del lavoro soprattutto così bistrattato. Ci voleva solo un po' di buona volontà, è stato voluto affossare questo DDL. Ma perché? In commissione mi sono rivolto soprattutto a quella parte politica che, insomma, aveva anche fatto campagna elettorale da questo punto di vista, e le loro, insomma, dai, queste scuse non lasciano il tempo che trovano. In che cosa consisteva quello che era stato approvato dalla Camera? In caso di dimissioni si compila un modulo che si può scaricare a internet con, naturalmente con il codice di scadenza, filmato in tempo reale e a costo... Anche qua qualche problema. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I made clear to Foreign Minister Lavrov today that if we're not able to see progress on the immediate efforts to be able to implement the principles of this agreement this weekend. John Kerry, lo avete sentito, il segretario di Stato, ieri ha fatto dichiarazioni subito dopo il vertice, il mini vertice di Ginevra. La speranza era quella di cominciare con una de-escalation, come si dice di questi tempi, della crisi in Ucraina. Beh, diciamo, il dialogo procede, l'impegno sulla carta c'è da parte di tutti. Vladimir Putin ha chiarito che non ci sono truppe russe all'interno dell'Ucraina e che la Russia stessa è favorevole a una diminuzione della tensione. Si è trovato anche un accordo per dei passi da fare da qui ai prossimi giorni per cominciare a ricondurre la situazione difficile di adesso alla normalità. Vedremo come andrà a finire. Io credo che fino a quando le truppe russe resteranno ai confini dell'Ucraina orientale, beh, insomma, la situazione difficilmente cambierà. Questo avanti e indietro l'abbiamo visto anche troppe volte. E questo ci riporta a un discorso di fondo che abbiamo fatto, si fa, lo ascoltiamo, lo sentiamo di questi tempi. E cioè, ma siamo a un ritorno della guerra fredda o no? Per discuterne in modo più autorevole ho con me ai microfoni di America 24 un ospite d'eccezione, Fausto Bertinotti. Buongiorno Bertinotti. Buongiorno e buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Beh, senta, intanto è un grande piacere per noi averla qui ai microfoni di America 24, ma vorrei andare subito al dunque. Siamo alla guerra fredda in Ucraina o no? Secondo me la guerra fredda è morta con il secolo, con il Novecento. La guerra fredda è nata da un contrasto insieme ideologico, politico di potenza in un mondo diviso in due blocchi contrapposti. Oggi ci possono essere momenti di tensione, persino di guerra purtroppo, di grande instabilità, ma si tratta di un conflitto molteplice che ha più soggetti, che sono le grandi aree economiche del mondo, alcune delle quali organizzate anche in potenza, e quindi possono dare luogo a tensioni, ma mai a un conflitto bipolare. Come si vede anche nella vicenda dell'Ucraina, si vede bene, no? Non può precipitare, non solo perché Putin ha un vantaggio, una rendita di posizione, quale quella che gli ha messo in mano il referendum in Crimea, ma perché la stessa posizione degli Stati Uniti d'America, quando anche mostra il volto duro, non può che essere negoziale, come si vede, ed è reciprocamente negoziale. Ecco, ma diciamo anche che non mi sembra che Vladimir Putin, oltre a tutto, sia il simbolo di quello che è stato il conflitto ideologico della guerra fredda. Insomma, no, ma assolutamente. Vladimir Putin non è un comunista. Ormai il mondo è organizzato in economie capitaliste. Si può, diciamo, usare al plurale questa definizione di capitalismo, in capitalismi, ma anche laddove i sistemi politici si riferiscono alla vecchia nomenclatura, Partito Comunista Cinese, in realtà parla di una società capitalistica. Quindi il conflitto è tra economie di mercato, anche organizzate autoritariamente, ma di mercato. Ecco, senta, io non la voglio tediare però con questioni così seriose, anche perché siamo a venerdì di Pasqua, insomma siamo... C'è l'ulivo. C'è l'ulivo, siamo in un'atmosfera poi così un po' vacanziera. E lei qui in vacanza? Sì, sì, per fortuna sì. Ecco. Diciamo. E quindi parliamo delle sue vacanze, perché milioni di italiani vengono in America, molti che ci ascoltano. Lei cosa ha fatto, per esempio, ieri? Siamo andati a Ellis Island. È quasi una visita d'obbligo, ma questa volta Elisabeth, ricordiamolo, dove gli immigrati arrivavano. Sì. E l'ha colpita questa moltissimo. Perché? Ma naturalmente c'è un deposito di memoria, quindi questo è evidente. E poi c'è l'incombenza delle nuove ondate di immigrazione che adesso arrivano in questa Italia che era stato un paese di emigrazione, quindi in qualche modo anche una metafora del nostro tempo, l'abbiamo vissuta noi oggi, ieri li vivono altri oggi. I volti dei nostri immigrati, questo mi hanno colpito moltissimo. Volti coraggiosi. Della disperazione e del coraggio insieme, la disperazione per aver lasciato un mondo sconosciuto e il coraggio di affrontare un mondo nuovo, totalmente sconosciuto. Ecco, quanto secondo lei in capitale umano, da un punto di vista di quella caratterizzazione di coraggio, appunto, abbiamo perso con questi flussi? Beh, io penso tantissimo. Il Mezzogiorno d'Italia è stato penalizzato due volte. La prima volta in questa ondata migratoria di là dell'Atlantico, la seconda volta con l'emigrazione in Italia. Gli più coraggiosi, quelli che più hanno, adesso non vuoi dire male di quelli che sono rimasti, ma insomma quelli che ci hanno provato, che avevano questa ansia di tentare, se ne sono andati, e il deperimento di intelligenze, di cultura, di coraggio è stato molto grande. Ecco, senta, lei prima chiacchierando mi ha detto, do una notizia, la do ai nostri ascoltatori, che invece ieri sera, per la prima volta nella sua vita, è andato a un Broadway show. Così anche alleggeriamo questa tensione drammatica che ha poca congruenza con la vacanza. Invece no, la vacanza è questa andata a Broadway, cosa che non mi sarei immaginata. Ma come mai? Perché ha scelto? Cosa è andata a vedere? Pippin. Ma... Cosa le è piaciuto? Le è piaciuto intanto il suo primo Broadway? Sorprendentemente mi è piaciuto. Sono stato molto colpito, in particolare da una cosa, lo straordinario livello di professionalità. Ma straordinario, veramente un'eccellenza in tutte le manifestazioni, e con una cura del dettaglio, si vede di chi sa che nel dettaglio può annidarsi il demonio, lo sa, e perciò fa in modo che non possa apparire. Questa capacità di manifestare il massimo della professionalità anche quando la professionalità è composita, cioè uno fa l'acrobata, fa il mago, fa l'attore, fa il cantante, quindi sono un mix di professionalità che però vengono ridotte a una, la capacità di fare spettacolo. Lei dice questo come se a noi mancasse un po' questa grande totale professionalità. Io ogni tanto lo dico, ma forse sì, cioè noi abbiamo davvero grandi artisti, grandi capacità interpretative. Però forse siamo sempre alla storia dell'industria culturale. A noi fa un po' difetto questa capacità di costruire industria culturale. So che può essere considerato un ossimoro, ma invece questa capacità di produrre, di avere una struttura di base che regge a tutti gli urti, forse a noi difetto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me Bertinotti, ma perché non la sceglie lei la canzone? Qual è una canzone americana, un artista, una canzone? La lanci. Wherever all the flowers gone. E John Baez, una cantante della storia, della fase conclusiva, diciamo, della nostra vicenda politica, che ho tanto amato e che continuo ad amare. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.